Il primo ministro ceco Vladimir Spidla ha ufficialmente presentato ieri sera, il 30 giugno, le sue dimissioni come primo ministro del governo ceco e come leader del Partito Socialdemocratico, mentre questa mattina, giovedì, ha ufficializzato in maniera scritta la sua rinuncia alla guida del governo anche al presidente della Repubblica Václav Klaus. Questo atto segna automaticamente anche la caduta dell'attuale governo, una coalizione che vedeva uniti da circa 2 anni socialdemocratici, cristiano-democratici e l'Unione delle Libertà. Il risicato governo Spidla, che aveva una maggioranza di 101 seggi su 200 nel Parlamento ceco, ha più volte dovuto affrontare turbolente crisi al suo interno. Spidla ha preso questa decisione dopo aver a fatica qualche giorno fa passato l'esame sul voto di fiducia all'interno del suo partito e dopo la clamorosa sconfitta alle elezioni europee, dove i socialdemocratici hanno raccolto poco più di un misero 8% contro un trionfo inaspettato degli euroscettici di centrodestra. Klaus ha incaricato Vladimir Spidla di occuparsi dell'ordinaria amministrazione fino alla nascita del nuovo governo e di prendere l'incarico anche del Dicastero di Giustizia, rimasto vacante dopo le dimissioni dei giorni scorsi del ministro Čermák. Il presidente Klaus inizierà le consultazioni ufficiali alla ricerca di un nuovo candidato primo ministro per risolvere la crisi. La stampa ceca ritiene che Klaus possa incaricare il responsabile del maggior partito presente in Parlamento, cioè l'attuale ministro degli interni Stanislav Gross, nonché nuovo segretario del Partito Socialdemocratico post Spidla. Klaus non si è espresso sulla formazione del futuro governo, ma ha escluso a priori la formazione di governi di minoranza, non considerando dunque l'idea dell'ex premier Zeman di un governo monocolore socialdemocratico. Da Praga, Alessio Marchetti, corrispondente per Reporter Associati e Amisnet.